Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, siamo alla vigilia di Expo 2015 e questa sera parliamo di cibo e parliamo con Francesco Galietti. Buonasera Galietti. Buonasera. Francesco Galietti è autore di un libro che si intitola Pappa Mundi, geoeconomia del cibo, un libro che racconta il cibo non tanto da un punto di vista, diciamo così, gastronomico, ma da un punto di vista della politica degli affari, della politica a grandi dimensioni, della politica vista nella sua dimensione globale. Francesco Galietti è fondatore del centro di scenaristica e rischio politico Policy Sonar. Che cos'è Galietti? La scenaristica o il libro? Direi il centro, così parliamo di scenaristica e parliamo anche del libro. Policy Sonar è un piccolo osservatorio che prova a conciliare dinamiche globali con scorci locali. Tratta tematiche che si collocano sulla intersezione tra pubblico e privato, tra Stato e mercato. E partendo da questa filosofia che è nato anche Papamundi è un piccolo pamphlet di dimensioni assolutamente risibili, un'ottantina di pagine, che spiega perché il cibo non è soltanto quello che siamo stati abituati a credere, certo, che sia, è anche uno delle pedine del grande gioco. Papamundi nasce dall'osservazione diretta di una cosa che riguarda da vicino l'Italia. Non più tardi di un anno e mezzo fa, chi parla aveva si era fatto l'idea che ci fosse un interesse molto forte per asset alimentari, quindi aziende, processi, brevetti, know-how, esperienza, non solo da parte dei soliti operatori di mercato, ma da parte dei fondi sovrani. I fondi sovrani sono degli investitori che si chiamano sovrani perché investono, sono del detramente dei, certo, bracci finanziari di stati, petromonarchie del Golfo, fondi pensione statali del Nord Europa e del Nord America, ma anche e soprattutto ormai molti investitori asiatici, quindi il fondo sovrano cinese, il fondo sovrano di Singapore e alcuni fondi sovrani africani. Ecco, quindi questo grande gioco, in fondo quello che io chiamo un risico mondiale, un risico di grandi interpreti, l'industria alimentare ha un ruolo importante, ha un ruolo quasi di primo piano nei grandi movimenti che si svolgono per controllare questa industria alimentare. C'è anche una tabella molto interessante nel libro sulle aziende italiane che sono ormai controllate dall'estero. Sì, le ragioni sono diverse. I fondi medio orientali sono da sempre ossessionati dall'approvvigionamento di cibo, per questioni cercano ciò che non hanno, sono dei giganteschi scatoloni di sabbia. Le loro linee di approvvigionamento passano attraverso dei colli di bottiglia, delle strozzature geografiche, no? Pensiamo al Golfo, insomma, il Golfo di Aden, canale di Suez, Bab el Mandeb, il canale di Hormuz, sono letteralmente delle strozzature. Questi paesi hanno paura e hanno già provato fisicamente questa paura di rimanere senza riso, senza grano, senza cereali, reali e senza acqua, per cui nel caso degli investitori statali medio orientali c'è questo riflesso qui. Alla fine degli anni 90 hanno provato sulla propria pelle cosa significhi rimanere di colpo a corto di cibo, in quel caso lì si trattava di uno sboom dell'Asia, delle tigri asiatiche, che aveva investito le aree limitrofe ed era arrivato fino al Medio Oriente. Oggi gli investitori come Qatar, l'Oman, Abu Dhabi sono molto attenti a comprare asset alimentari o a comprare dei poli logistici che semplifichino l'approvvigionamento di cibo. Il libro ha anche alcune parti apparentemente di humor, in cui si racconta che l'Arabia Saudita a un certo punto era talmente ossessionata dalla ricerca di cibo da divenire il secondo produttore mondiale di riso. l'Arabia Saudita, certo. Non ribadi bene, non il Vietnam. Con costi incredibili, costi astronomici, ma questo dà l'idea di quanto sia forte questa ossessione. Poi, oltre ai medio orientali, che ripeto, cercano ciò che non hanno, ci sono gli investitori, i fondi sovrani, il dragone, la grande fame del dragone è forse il driver, la molla più forte che spiega questa dinamica, perché la Cina, dove ovviamente i grandi numeri sono numeri enormi, ha un ceto medio in rapidissima ascesa e quindi con gusti alimentari in evoluzione. Questo comporta che questo ceto medio, che per piccolo che sia comunque comporta svariate decine, centinaia di milioni che si aggiungono ogni anno nella fascia dei consumatori borghesi, mangi più carne. Mangiare più carne significa consumare più acqua. Certo. Le implicazioni sono colossali. Ecco, c'è un aspetto anche un po' inquietante in questo libro, soprattutto in conclusione, quando si fa intravedere la possibilità che cambi il modo di produrre gli alimenti, si arrivi alla produzione sintetica, si abolisca in pratica l'intermediazione degli animali, si arrivi alla carne direttamente dalle biomasse. Ecco, è una prospettiva che comunque sta portando anche a grandi investimenti dal punto di vista finanziario, e che è tutt'altro che irreale. È tutt'altro che irreale, perché la domanda di cibo è in crescita e l'attuale offerta di cibo, quindi comunque fatta con tecniche che in ampia parte sono ancora tecniche tradizionali, è insufficiente a soddisfare la domanda in crescita, per cui il paese, soprattutto le economie asiatiche, che a differenza dell'Occidente hanno meno impedimenti, meno scrupoli di tipo etico morale, sono da sempre attenti a aspetti tecnici. Per esempio, il brodo culturale in cui si innesta questo dibattito è comunque quello di una Cina che tradizionalmente predilige la acqua culture, l'allevamento di pesci anziché il pescato selvatico. Gli OGM che suscitano indignazione in ampie fette dell'opinione pubblica occidentale, in Asia non solo non suscitano alcuna indignazione, ma sono considerati necessari. La sintocarne o carne in vitro a cui lei fa riferimento è una realtà molto concreta su cui stanno convergendo enormi capitali. Per tante ragioni, nel caso da una prospettiva asiatica, semplicemente poter produrre carne, quindi soddisfare i gusti sempre più sofisticati di una classe media enorme, senza però avere le esternalità negative della produzione di carne, perché ripeto, consumo di acqua, maggiore inquinamento, maggiore buco nell'ozono, tutte queste sono esternalità negative derivanti dal consumo di carne. Per la Cina c'è molto di questo, quindi avere l'aspetto positivo senza l'esternalità negativa. Per l'Occidente la produzione di sintocarne è fantastica, perché consente di superare in curva da destra quella che è la principale obiezione che viene mossa dagli animalisti, dai vegani, al consumo di carne, cioè la sofferenza dell'animale condotto al macello. Quindi se all'origine della cosa che hai nel piatto e che in tutto e per tutto è carne, non c'è lo strazio del macello di un animale cresciuto, imboccato, ingozzato a forza, magari con porcate, ormoni e schifezze varie, ma la mucca Lola non soffre, anzi magari pascola felice nel suo pascolo, e tu ti puoi però mangiare la bistecca comunque, allora questo riesce a conciliare sensibilità che in Occidente sono molto forti. Ecco, però la sfido a convincere i fiorentini che la bistecca, la fiorentina sintetica, può essere migliore della bistecca. Non me lo dica a me, che ho la moglie fiorentina. Ecco, avviandoci alla conclusione, guardando un po' complessivamente questa geopolitica del cibo, uno dei grandi problemi è anche la disuguaglianza della distribuzione del cibo, cioè il fatto che nei paesi occidentali si mangia troppo e nei paesi emergenti, chiamiamoli ancora emergenti o sottosviluppati, si mangia troppo poco. È una disuguaglianza in via di soluzione? Una soluzione, la soluzione passa dal progresso della tecnica, della tecnologia. Diversamente continueremo ad avere delle aree del pianeta che soffrono per le disparità di cui lei offre uno scorcio e che a loro volta si traducono in potenziali focolai di conflitto. Certo. Lo ripeto, il libro non è solo un libro che soffia sul fuoco, è un libro che offre anche degli scorci. Chi parla è stato 3 mesi interi alla Singularity University in California, dove a parte le locuste capitalistiche californiane, venivano anche a parlare numerosi esponenti del mondo attento allo sviluppo africano, c'era la Skoll Foundation per esempio, e tutti, ma proprio tutti, erano d'accordo sul fatto che se ci sarà una soluzione, questa soluzione passerà dalla tecnologia, dal progresso della tecnologia. Tra l'altro, appunto, le potenzialità ci sono, le potenzialità anche di maggiore produzione, ma anche di distribuzione migliore della produzione, evitando appunto gli sprechi, gli scarti. Il cibo non è solo il prodotto, il cibo è tutto quello che gli ruota attorno, quindi anche la catena del freddo per esempio, e la logistica, i tempi di trasporto dal punto A al punto B, e letteralmente è un multiverso, lo chiamo io, non è un universo, è un multiverso. Ecco, la speranza è che possa essere una soluzione, che non sia un problema o che non sia un'arma. Il cibo, lei lo spiega molto bene e nel libro, può diventare un'arma, come l'è stato anche il petrolio, come è stata appunto le risorse, come sono state le risorse naturali in molti casi. Comunque è un libro che dà molti suggerimenti, che dà molti elementi di riflessione, e ringraziamo Francesco Gaglietti di averlo scritto e di averlo presentato questa sera. Grazie dottor Gaglietti, abbiamo parlato del libro Pappamundi, Geoeconomia del cibo, edito da Guerini, sono 94 pagine per 11,50 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.